Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Cosa volete che capiti a un titolo in borsa quando viene acquisito per 5 miliardi e 440 milioni di euro da Microsoft? Capita che il titolo in questione, che si chiama Nokia, ormai praticamente ciò che era rimasto in Europa, diciamola tutta, nel settore in senso lato della tecnologia, anche perché Ericsson ha grossi problemi, ma insomma Nokia guadagna il 35% in borsa a Milano, perché è quotata anche a Milano, e alla borsa di Helsinki è arrivata a guadagnare il 45% a 4 euro per azione a Milano. In questo momento è chiaramente il miglior titolo del listino. Parleremo, perché insomma non è chiaramente una coincidenza il fatto che nell'arco di una settimana arrivi un'operazione da 130 miliardi di dollari, sebbene metà in azioni. Mi riferisco chiaramente alla cessione da parte di Vodafone della partecipazione con Verizon in Verizon Wireless, che porta appunto in cassa a Vodafone 130 miliardi complessivamente di dollari, e poco dopo arrivi un'operazione in cui Microsoft si compra i cellulari Nokia e anche il marchio Lumia. Per la precisione, infatti Microsoft rileverà tutte le attività devices and service di Nokia, la licenza per i brevetti Nokia e l'uso dei servizi mappe di Nokia, e qui già iniziamo a capire qualcosa. L'accordo dovrebbe chiudersi nei primi tre mesi del 2014. 32.000 dipendenti Nokia passeranno a Microsoft. Nokia è, diciamo, era la punta di diamante dell'industria finlandese, e sarebbe interessante anche fare un ragionamento un domani su come reagisce la Finlandia in un'operazione del genere, come avremmo reagito magari noi in Italia. Comunque sono 4.700 in Finlandia e altri 18.000 che si occupano invece della produzione manifatturiera, assemblaggio e packaging dei telefonini. E tra l'altro, ovviamente, l'amministratore delegato di Nokia, Stephen Elop, ha lasciato l'incarico, diventerà vicepresidente esecutivo della divisione Device and Services. Secondo indiscrezioni, potrebbe essere Elop candidato a sostituire l'amministratore delegato di Microsoft, Steve Ballmer, che ha annunciato che lascerà la società entro 12 mesi. E questo, voglio dire, è la notizia più importante, ma soprattutto in un settore, tra l'altro, che ci riguarda da vicino, perché Telecom Italia, il cui patto dentro Telco può essere, diciamo, rivisto lungo tutto il mese di settembre, è da molti considerata, da un lato, la Cenerentola, ma un po' come Cenerentola anche la preda, si può dire, forse nella favola non era così, ma insomma l'elemento più appetibile, la compagnia più appetibile in questo momento, o da Telefonica, che ne controlla, che ne ha la maggioranza relativa, o da altri gruppi internazionali, e gli occhi infatti sono puntati anche su Telecom Italia da ormai giorni. Oggi il titolo non sale così tanto come gli altri giorni, comunque guadagna l'1,5% a 55 centesimi di euro per azione, ed è il quinto miglior titolo comunque dell'S&P MIB, preceduto da UbiBanca più 2,70 come Pirelli, Fondiaria più 1,80 come Steel Microelectronics, Telecom Italia appunto più 1,5%, Eni più 1,1%. Poi seguono alcune banche, Intesa San Paolo e Unicredit in rialzo dell'1% come Fiat. Fronte opposto, Autogrill meno 1,5%, Mediolanum meno 0,6%, Azimut meno 0,5%. E quindi che cosa sta capitando nel mondo dell'information technology in senso lato, perché ormai è difficile distinguere chi fa telecomunicazioni, il carrier, come si chiamava una volta, mi riferisco a Vodafone per esempio, chi produce l'apparato di supporto, caso di Nokia, chi fa software o faceva software e basta come Microsoft. Tutto si sta intrecciando, la guerra appunto è spietata, ma in realtà è anche l'integrazione dei vari supporti, come dicono quelli che hanno studiato. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, sia appunto sul fronte internazionale che sul fronte anche italiano, che vede coinvolta Telecom Italia. In apertura invece ci occuperemo di economia italiana, nel senso che ieri da Genova, come oggi trovate su tutti i giornali, è arrivato un accordo tra Confindustria e i sindacati per, se mi passate il termine, dettare l'agenda al governo, dettare brutto, insomma, dare le indicazioni al governo di quella che deve essere l'agenda del mondo produttivo. Io non voglio aprire polemiche sull'IMU, ci mancherebbe, però fino adesso ci siamo occupati più che altro di IMU e vediamo anche sull'IVA che succederà. Continuo a ricordare che finché non riparte la produzione industriale in questo paese, tutta inclusa, quindi vuol dire la produzione manifatturiera ma anche quella dei servizi, però finché non riparte la produzione industriale, non riparte l'occupazione, non ripartiranno i consumi e quindi diciamo, tutte le varie iniziative saranno solo dei pannicelli caldi, dei palliativi in alcuni casi. Ecco perché Confindustria e i sindacati chiedono con forza un intervento incisivo sul costo del lavoro, da un lato, che vuol dire sì, la tassazione in busta paga, ma anche per esempio quello che le imprese costano, assumono un dipendente, perché il dipendente va anche nel calcolo, c'è una quota di IRAP che è legata alla forza lavoro e obiettivamente è un elemento che disincentiva la nuova occupazione. Di questo parleremo in apertura, anche perché insomma, non sfugge a nessuno anche l'elemento e la cifra politica dell'accordo. CGL, CISL e UIL assieme a Confindustria a chiedere al governo che non l'occupazione in senso stretto, ma la produzione, l'attività produttiva venga messa al centro dell'agenda del governo, che vuol dire anche occupazione, ma vuol dire anche possibilità di rendere le nostre imprese più competitive sul fronte anche fiscale. Poi c'è il fronte bancario, ma non è cosa diciamo di questa iniziativa, però c'è un altro elemento che riguarda le banche, perché ci occuperemo, dopo aver fatto la Banca di Marche ieri, Banca delle Marche ieri, oggi della Fondazione Carige, e ossia della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. Nulla a che vedere con quello che è successo in Banca Marche, però la Banca d'Italia ha chiesto alla Cassa di Risparmio di Genova un ampio ricambio del Consiglio di Amministrazione, con la sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Berneschi di quella del Collegio Sindacale. Questo secondo quanto rivelato da chi ha potuto vedere il documento della vigilanza della Banca d'Italia, che ha lamentato o criticato le pratiche gestionali del gruppo, in particolare, e qui qualche leggerissima somiglianza con Banca Marche c'è, la pratica di prestare soldi a pochi e selezionati amici con rischi creditizi sottovalutati. Ricordo la vicenda di Banca Marche, insomma, i soldi venivano raccolti sul territorio marchigiano e prestati dovunque, tranne che nelle Marche, a persone poche e inaffidabili. Da lì il buco di 2 miliardi e la rettifica dei crediti di mezzo miliardo. Ci si sono accorti un po' tardi che forse avevano preso i soldi a persone non così affidabili, o meglio, lo sapevano fin dall'inizio probabilmente, ma erano amici. Nel caso della Cassa di Risparmio di Genova, questa sarebbe invece l'accusa generica generale della Banca d'Italia, che ha evidenziato anche una strana governance dentro la Cassa di Risparmio di Genova. Ci sarebbe un direttore generale che non usa i propri poteri, un presidente che ne esercita troppi, e poi anche consiglieri di amministrazione che, quando hanno criticato la gestione del presidente Berneschi, poi non hanno votato contro. E poi una scarsa sensibilità, dice sempre la Banca d'Italia, sull'antiriciclaggio, in particolare nella gestione della fiduciaria del gruppo e della filiale di Nizza. Ne parleremo più avanti, ripeto, attenzione ai facili parallelismi, insomma, comunque qualche elemento, la cornice di una gestione bancaria che troppo discrezionale nel concedere credito, tra l'altro a mio avviso ancora più grave in un momento in cui invece il credito in generale per i comuni mortali è ai minimi e viene continuamente ristretto a imprese, imprenditori, commercianti, artigiani, lo sappiamo, ecco, è ancora meno accettabile, diciamo, se il periodo è questo. E poi la borsa l'abbiamo già anticipata, sostanzialmente è fatta oggi la vicenda Nokia, anche se da noi va molto bene Pirelli, più 3%, e appunto UbiBanca più 2,60%. L'indice complessivo di Piazza Affari guadagna lo 0,30%, è uno dei pochi positivi. Parigi infatti perde lo 0,20%, Francoforte lo 0,40%, Londra meno 0,30%, l'America è positiva di mezzo punto percentuale. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Petrolio stabile sui mercati, addirittura in leggerissimo calo a New York, comunque a $107 al barile. Oro invece in rialzo questa mattina, soprattutto sui principali mercati asiatici, a $1,392 l'oncia contro i $1,373 di ieri. Il rapporto OCSE in realtà è diciamo una correzione, un assestamento, lo chiamano interim assessment, mezzo latino, mezzo inglese, comunque sono le correzioni di metà ciclo. Dice l'OCSE che nonostante il ritorno della crescita economica, la disoccupazione resterà elevata in molte economie avanzate, anche se vi sono appunto miglioramenti negli Stati Uniti e in Giappone. L'area euro, continua l'OCSE, nel suo insieme non è più in recessione, ma il ribilanciamento tra i paesi in deficit come il nostro e quelli in surplus come la Germania resta ancora incompleto. Nel caso dell'Italia quest'anno chiuderemo con un meno 1,8%. La cosa che diciamo così è preoccupante è che noi siamo l'unico paese a chiudere in negativo quest'anno tra i G7, tra i 7 paesi più industrializzati. Comunque, ha detto il vice capo economista dell'OCSE, Jorgen Elmeschkoff, che gli indicatori suggeriscono che l'Italia stia uscendo lentamente, ma stia uscendo dalla recessione in cui era caduta. Però ci sono alcune cose che potrebbero succedere: il rischio politico è un rischio da un lato, è un rischio eurozona invece più ampio, cioè sull'intera area euro, che potrebbe avere un impatto. E comunque la Commissione europea è pienamente fiduciosa che il governo italiano rispetterà gli obiettivi presi sul deficit. Aver levato l'IMU, il governo deve trovare 4 miliardi, 2 in realtà li ha già trovati, mancano 2 miliardi, 2 miliardi e 3 per la seconda rata dell'IMU, ma questi sono importanti anche perché quella parte lì, cioè l'IMU serviva a tenere, tra le altre cose, non solo l'IMU, ci mancherebbe, a tenere il deficit sotto il 3%. Ancora c'è chi mi chiede, segnala anche l'andamento della Popolare di Marostica. Adesso vedremo, spero che non inizi una raffica di banche, diciamo di dimensioni medie, regionali, con problemi. Qui però altri di voi fanno il parallelo con la Spagna. Attenzione però, in Spagna il caso delle varie casse di risparmio era dovuto più che riunite poi in Bankia, che è stata salvata con i soldi anche europei, era dovuto più a una loro eccessiva esposizione sul mercato immobiliare in un paese come la Spagna, dove il mattone era veramente in bolle, quindi aver prestato soldi, concesso mutui in maniera rischiosa su un mercato che poi è crollato. Qui, da quello che vediamo, su Banca Marche sicuramente, ma forse anche sulla Cassa di Risparmio di Genova, l'accusa non è di essersi troppo esposti sul mercato immobiliare in generale, ma di avere concentrato i prestiti a pochi soggetti, tra virgolette amici, e molto rischiosi. E comunque, anche se non fossero rischiosi, diciamo, una banca non può concentrare i suoi prestiti solo su alcuni soggetti, perché comunque il rischio, diciamo, diventa sistemico. Due anni, veniamo all'Italia, 8 mesi di reclusione, 20.000 euro di multa. Questa è la pena patteggiata da Giulia Ligresti oggi nell'ambito dell'inchiesta Fondiere SAI. Proposta accolta dal Tribunale, ricordo a tutti che il patteggiamento equivale all'ammissione della colpa. E quindi poi Giulia Ligresti ha detto: sono sfinita, questo sarebbe stato il suo commento. Adesso è agli arresti domiciliari a Milano, sta seguendo le cure perché era molto dimagrita durante il carcere. E prima di arrivare al tema di sindacati e Confindustria, cosa chiede il mondo produttivo al governo, visto che parlavamo di banche, insomma qui c'è una vicenda un po' singolare, perché a Napoli, anzi per la precisione nel Salernitano, scusate il refuso, un uomo aveva messo in piedi una vera e propria attività bancaria e finanziaria abusiva. Cosa faceva? Concedeva prestiti per un totale di 6 milioni e 400 mila euro a imprenditori privati. Il problema è che lui si dichiarava per il fisco povero, a questo punto falso, tant'è che la Guardia di Finanza gli ha contestato un'evasione per 9 milioni di euro e praticamente ha emesso 424 assegni nel triennio 2004-2006, prestando appunto soldi per un totale di 6 milioni e 400 mila euro. Ma a questo falso povero, attenzione, ecco, l'unica è chiaro che questo, se ha evaso 9 milioni di euro, verrà perseguito, pagherà, e ci mancherebbe pure. L'evasione fiscale è un reato. L'evasione fiscale è un reato. La cosa interessante è che al falso povero si rivolgevano anche semplici cittadini per sostenere ad esempio le spese di un matrimonio, ma anche imprenditori con problemi di liquidità che non potevano chiedere prestiti alle banche. I tassi applicati, questo è l'elemento all'interno di un reato, ripeto, l'evasione fiscale è un reato a qualunque livello venga compiuta, ma all'interno di questo, dico, lui praticava dei tassi oggettivamente da mercato, perché i crediti personali erano sui 12% anno di media, i finanziamenti alle imprese li praticava al 10%, cioè faceva concorrenza reale, altro che strozzinaggio alle banche. E quindi da questo punto di vista non si può parlare di strozzinaggio, perché sono tassi bancari, ma di evasione fiscale sì. Ultimo tema riguarda la vicenda Fiat. Allora, i delegati FIOM rientreranno nelle fabbriche Fiat a patto che si arrivi a una legge sulla rappresentanza sindacale. La decisione l'ha presa infatti il tribunale, però questa è la posizione del Lingotto, che ha riaperto il dibattito sull'intervento normativo in merito alla rappresentanza. Contrario da sempre il senatore del PDL ed ex ministro del lavoro Maurizio Sacconi, raggiunto dalla nostra Valeria De Rosa. Credo in un sistema di relazioni industriali libero e responsabile, autoregolato dalle parti. Non penso che sia utile irrigidire il criterio della rappresentanza. Sono modalità che devono essere flessibilmente individuate in ciascuna azienda, sapendo che poi valgono gli accordi che ci sono. Penso che sarebbe pericolosissimo evocare con la legge, ancora una volta la magistratura, per stabilire la validità di accordi sindacali. Penso che sia utile limitare questo ruolo della magistratura e fare in modo che quanto più siano le parti sociali, l'azienda, i lavoratori, liberamente e responsabilmente a individuare le vie dell'intesa. Favorevole invece a una legge sulla rappresentanza sindacale è Giorgio Airaudo, ex sindacalista della FIOM, deputato di SEL, e ha risposto sempre la nostra Valeria De Rosa anche sulla responsabilità delle parti. Sulla responsabilità delle parti non ho mai avuto dubbi, ho partecipato nel mio recente passato a moltissimi tavoli di trattative. Il problema non è se le parti sono responsabili, è se a un certo punto qualcuno cerca di escludere una legittima rappresentanza dei lavoratori, e il punto è la validità degli atti negoziali. Non sono state le parti sociali dei lavoratori a mettere in discussione la validità dei contratti e la validità della rappresentanza. È stata un'importante impresa privata che ha pure deciso di uscire dalla propria associazione. Direi che proprio l'esempio Fiat dimostra che la responsabilità è tanta ma non è sufficiente. Serve una legge a garanzia di tutti, su questo sono proprio d'accordo con la Fiat. Penso a una legge di supporto alle relazioni sociali, non penso a una legge che si sostituisca ai rapporti sociali. Si figuri se io credo che il sindacato sia sostituibile, il sindacato è insostituibile. Questo è un fronte, ma in realtà la notizia più importante ieri è arrivata da Genova, quindi poco distante da Torino, dove nel corso della festa nazionale del PD il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e il leader di CGIL Susanna Camusso, di CIS Raffaele Bonanni e della UIL Luigi Angeletti hanno sottoscritto un patto, già chiamato il patto di Genova, una legge di stabilità per la crescita e l'occupazione. I punti previsti, punti chiave chiaramente, ridurre il prelievo fiscale sui redditi da lavoro ed eliminare la componente del lavoro, quindi dell'occupazione, nel calcolo della base dell'IRAP, rendere strutturali le misure a favore della produttività, ridurre il costo dell'energia, più investimenti in innovazione e anche sviluppo della green economy, e poi abolizione delle province, interventi sulla spesa pubblica con un'analisi selettiva a tutti i livelli di governo. Ed è sembrato, anzi, è l'agenda del mondo produttivo al governo Letta. Come ha risposto il governo Letta ieri dalla Slovenia? Ma da Genova è arrivata una buona notizia, che Confindustria e i sindacati facciano un passo avanti per una maggiore politica attiva sul lato economico, sui temi del lavoro, sulle politiche industriali. A me sembra sicuramente una buona notizia. Punti chiave in cui è su cui si basa questa intesa, che riguarda anche una nuova finanza per lo sviluppo, cioè favorire una maggiore capitalizzazione delle aziende, rafforzando anche i meccanismi di detassazione degli utili reinvestiti, un discorso molto semplice: i soldi rimessi dentro l'impresa non possono essere tassati o avere così poche agevolazioni come i soldi che uno si tiene per sé o li metto in banca. Ha il diritto di farlo, però è chiaro che dovrebbe esserci anche un incentivo a dire rimetto i soldi in impresa, perché questo consentirebbe di aiutare quello che è una debolezza delle imprese italiane, colpa anche degli imprenditori, cioè delle volte la bassa capitalizzazione di imprese. Dicevo, i punti li ha ricordati il presidente Confindustria Giorgio Squinzi. Abbiamo convenuto che c'erano tre temi sui quali è fondamentale fare un cambio di passo: il tema del fisco in tutte le sue articolazioni, in modo particolare per una riduzione del costo del lavoro che noi riteniamo fondamentale, il tema delle politiche industriali e poi l'altro grande tema, che è quello delle riforme istituzionali, per poter permettere a tutti gli investimenti che si possono programmare e che si possono lanciare, in modo particolare sulle infrastrutture, di poter effettivamente poi essere tradotti in realtà. E poi il leader della CGIL Susanna Camusso, che ha sottolineato l'importanza in primo luogo delle richieste sugli interventi fiscali sul costo del lavoro, il famoso cuneo fiscale, la differenza tra quanto costa un lavoratore e quanto resta poi effettivamente in busta paga. Noi abbiamo, basta guardare i dati OCSE, il cuneo fiscale più alto dopo la Francia a livello europeo, e di molto anche più alto, quasi 10 punti rispetto alla Germania. Comunque, la Camusso. Non a caso mettiamo il fisco come primo tema da affrontare, che non è solo, ovviamente è anche, fisco per gli investimenti, fisco per l'occupazione, ma è soprattutto fisco come redistribuzione del reddito. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Ti ho fatto un po' aspettare, ma volevo che fosse chiaro, insomma, il panorama anche delle varie risposte e dei vari anche interventi. Oggi ne è arrivata un'altra, però, da parte del presidente dei deputati del PDL Renato Brunetta, che contestando l'assenza di copertura finanziaria del protocollo comune, quello di appunto Confindustria e sindacati, ha detto: tutto molto bello, bellissimo, straordinario, ma Confindustria e sindacati non solo non ipotizzano alcun tipo di copertura per la realizzazione di questi interventi, ma nemmeno quantificano il costo dell'operazione. Ebbene, lo facciamo noi. Per avere davvero effetto sull'economia, tutte le misure elencate nell'impatto richiedono dai 40 ai 50 miliardi. Io ho visto anche una posizione ieri da Genova, sia di Squinzi che dei tre leader del sindacato, dire: facciamo come avete fatto per l'IMU, prima diciamo che si abbassano le tasse e poi troviamo le risorse. Guido. Ovviamente l'osservazione di Brunetta potrebbe riguardare un progetto di legge, questo non è un progetto di legge su cui bisogna indicare una copertura, è un documento congiunto e certamente se tutte quelle misure fossero prese d'un colpo arriveremmo alla cifra indicata da Brunetta, 40-50 miliardi, evidentemente questo non è possibile. Però c'è un indice di priorità che è importante, che come avete ricordato voi è la manovra sul fisco e sulla riduzione del carico fiscale sul lavoro e su impresa, e è molto importante secondo me, e questa è una novità, il fatto che comunque viene indicata anche una riduzione della spesa pubblica, e questa non è una cosa diciamo di ordinaria amministrazione, perché in genere i documenti diciamo congiunti nella storia italiana, congiunti sindacati, imprenditori e anche gli accordi che spesso si facevano erano un po' sulla pelle del bilancio dello Stato, quindi la concertazione avveniva su questo e gli accordi avvenivano su questo. Questa volta si dice chiaramente che dalla riforma del titolo quinto all'abolizione delle province, a interventi che riguardano diciamo gli 800 miliardi del monte spesa della spesa pubblica in Italia, occorre ridurre la spesa, e questo è un dato importante. Quindi con una spending review degna di questo nome si potrebbero trovare le risorse per fare ad esempio la manovra sul cuneo fiscale, tenuto conto che la fece Prodi e non ce ne accorgemmo quasi, era di circa 5 miliardi, e per essere diciamo una manovra significativa parliamo di una cifra tra i 10 e i 12 miliardi, quindi effettivamente le risorse sono una voce importante per questa tipo di scelta di politica economica, però credo che questa sia la strada giusta. Sì, quando la fece Prodi, non mi ricordo se i punti percentuali di tassazione furono 5 o 6 complessivamente, vado a memoria, però a mio avviso lì ce ne accorgiamo poco in busta paga, perché la maggior parte andavano a vantaggio delle imprese in quel caso, cioè 2-3 punti restavano sul lavoratore, 4 o 3 erano sulle imprese. Sì, ma comunque non fu modificata nemmeno da questo punto di vista la competitività delle imprese, insomma, il bilancio delle imprese. Questo è vero, e tra l'altro devo dire che in questo caso la riduzione del carico fiscale sulle imprese, a differenza di quello che scrivono alcuni ascoltatori, va compreso bene, cioè tu puoi ridurre il cuneo fiscale a vantaggio del lavoratore, che è chiaro che questo porta un vantaggio anche per l'impresa, perché si trova un lavoratore che tendenzialmente non chiederà aumenti, nel senso avrà un po' più di risorse, ma l'altro vantaggio grosso, oltre che rendere più competitive le imprese che hanno un minor carico fiscale sui prodotti, è di far ripartire i consumi interni se fatto bene, perché è chiaro che un lavoratore in busta paga, lì le tasse in quanto obbligato, sono trattenute alla fonte, le paga tutte, vedere 3, 4, 5 punti in meno di pressione fiscale in busta paga, beh, può liberare un po' di risorse per far ripartire un po' i consumi, che è l'altro vero, o forse il vero problema in questo momento del paese. Guido, resta con noi, perché dopo il meteo vorrei capire invece il cotè anche politico, perché Letta, scrivono gli ascoltatori, ma insomma ha risposto così contento, ma ha capito veramente la pressione. Io ho avuto la sensazione che il mondo produttivo, Confindustria, sindacati, ma anche il resto, dopo la cosa dell'IMU, avendo visto il governo diciamo fare i salti mortali per levare la seconda rata dell'IMU, abbia detto bene, adesso però mettete al centro anche chi produce in questo paese, che è un po' il ragionamento che fanno anche il mondo dei servizi sull'IVA, cioè non so se abbia avuto un senso immolarsi per l'IMU se poi devi aumentare l'IVA, che va a penalizzare anche il mondo produttivo. E vorrei capire questo che cosa comporta da un punto di vista politico come pressione. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Guido Gentili, il cotè anche politico di questa richiesta, a mio avviso sacrosanta, di sindacati Confindustria, avere un lavoro meno tassato e imprese meno tassate sul lavoro, e aggiungo io anche meno tassate sugli utili reinvestiti, perché insomma qui oltre a trovare i 2 miliardi che mancano per il 2013 servono a trovare 4 miliardi per il 2014, più, se vogliamo evitare l'aumento dell'IVA, insomma in totale 7 miliardi solo sul 2014. Sì, le cifre cifre sono importanti. L'altro giorno il sottosegretario Baretta ha detto entro un mese ne dobbiamo trovare 4 di miliardi prima della legge di stabilità. Quindi si tratta di scegliere, e qui arrivo anche al giudizio politico che ha dato il Premier Letta al documento di Genova di Confindustria e Sindacati, ha detto è una buona notizia, quindi ha accolto bene, però questo significa anche lui è stato un bravissimo equilibrista in questi mesi, insomma 4 mesi di lavoro, e ha mediato con grande appunto abilità con questa strana maggioranza attraversata da grandissime tensioni politiche, però adesso è arrivato il momento di scegliere, perché fin qui ha adottato una tattica di navigazione a vista, di rinvio, un rinvio dopo l'altro, e quindi con dei problemi che si chiudevano da un lato e si riaprivano da un altro. Adesso con la legge di stabilità è arrivato il momento di scegliere, quindi se fare un intervento ad esempio come quello sollecitato da Confindustria e Sindacati significa aprire una partita importante dal lato della spesa pubblica con i tagli, con le riforme, la spending review vera, e si tratta appunto di scegliere e non più galleggiare tra una copertura e un'altra, magari rinviando qualche tassa ma assicurando poi la copertura successiva all'aumento di un'altra tassa, e questo non è più possibile. E qui non vorrei che poi fosse solo un sì, un sono d'accordo, un hai ragione di prammatica, no? Nel senso, perché poi se poi i soldi non ci sono. Però a me sembra importante, come tu ricordavi, che a questo punto c'è, cioè, il governo, vedremo poi cosa succederà adesso fra 3 giorni, quattro giorni, però chiuso il ciclo, diciamo, del sostegno elettorale, del sostegno del parlamentare, deve anche indicare delle priorità, sapendo che scontenti qualcuno, cioè i soldi per tutti non ci sono. Però proprio perché sta ripartendo l'economia, il rapporto dell'OCSE oggi era chiaro, l'Italia è uno dei paesi che invece però ancora fatica, rallenta. L'unico paese del G7, l'unico del G7 che chiude in negativo nel 2013, e non di poco, -1,8%. Allora, fare politica industriale, lo dico, non vuol dire regalare soldi a nessuno, ma vuol dire mettere il paese anche nelle condizioni di agganciare la ripresa. Poi è chiaro che devono essere gli imprenditori e i dipendenti a renderla possibile, ma visti i dati sull'export non mi sembra che le nostre imprese siano così poco competitive quando riescono a lavorare. Il problema è renderle anche meno zavorrate, se si decide che questo paese ha un futuro manifatturiero. Se no, decidiamo che ha un futuro solo nei servizi, però non capisco come, visto che poi parleremo anche di Telecom Italia in generale, e non vedo tutti questi servizi presenti in questo paese. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Ridere un ascoltatore che dice a Bill, immagino Gates, ma se ti mancava il cellulare bastava dirlo, non serviva a comprarsi tutta la Nokia. In effetti spero che non fosse questo il motivo per cui c'è l'operazione da 5 miliardi e 4 in cui Microsoft compra i telefonini della Nokia, che è il vero caso di borsa, ma non solo in Italia, perché pochi se lo ricordano, ma Nokia Corporation è quotata anche a Milano, ha guadagnato oggi il 34,75%. Beato chi se l'è comprate a 3 euro. Alcatel Lucent Technology più 9,31%, mentre sul fronte opposto Ciccolella meno 4,60%, Banca Marche, prestavi soldi anche a Ciccolella. Screen Service Broadcasting meno 3,70, Cofide meno 3,43, questi i peggiori in assoluto, migliori peggiori in assoluto. Stranamente non così mossa ST Microelectronics, ma in generale oggi tra i titoli di maggiore capitalizzazione Pirelli più 2,60, Telecom, e qui torno al discorso Nokia, Microsoft, più 1,90%, secondo miglior titolo UbiBanca più 1,60%, Fondiera SAI più 1,20%, eccola qua, ST Microelectronics più 1,12% e Fiat più 0,70%. La borsa, come sempre, con i colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, visto che abbiamo tutta la seconda mezz'ora su Nokia, Microsoft e Telecom Italia, lascerei perdere questo fronte. Dopo il traffico invece mi concentrerei su Fiat Autogrill e anche Eni, che oggi non va bene. Volete sapere lo spread? Lo spread è di nuovo tranquillo, sotto i 240 punti base, 10 punti di differenza con quello spagnolo. ...17:47 di nuovo in diretta. Allora, ciò Condina, rapidi ma non invisibili, a differenza dei sommergibili di Mussolini. I titoli fuori dal comparto telefonico: Pirelli bene, più 2,60, Fiat, Autogrill e Deni soffrono invece. Sì, Pirelli oggi ha annunciato il rafforzamento di un accordo commerciale con la russa Rosneft, un accordo che porterà poi a diciamo instaurare alcuni punti vendita Pirelli in nove aree russe. Diciamo che l'accordo in sé poi non è particolarmente significativo, più che altro oggi a Piazza Affari c'è stata la valorizzazione di diversi titoli industriali. Pirelli veniva da alcune sedute in cui era stata penalizzata e dunque sono affluiti gli acquisti. Dall'altra parte dell'Issineo, quindi il titolo più negativo è stato Autogrill, che ha chiuso a meno 1,4%, qui pesa la sconfitta del gruppo nella gara per aggiudicarsi le attività di duty free nell'aeroporto internazionale di San Paolo del Brasile, che per la cronaca fa 33 milioni di passeggeri. Un po' come Linate. Commentavo prima che fa più di Linate e Malpensa messi assieme, certo. C'è da stupirsi. Allora, e questo per quello che riguarda Autogrill. Altri titoli: di Assorin meno 1,40, Azimut meno 1,30, Mediolanum meno 1,30%, Buzzi Unice meno 1,1, Snam meno 1,1, Eni meno 1%, appunto come tu ricordavi, Generali meno 0,90, Fiat Industrial meno 0,80%, bene, Telecom Italia ne parleremo, Ubibanca più 1,60, Fondiaria più 1,20, Estima Microelectronics più 1,12%, bene anche Tod's più 0,60. Mi aspettavo qualcosa in più dalle banche, visto il calo dello spread, ma oggi poco mosse, devo dire, nel finale soprattutto. Ubibanca ha comunque fatto un più 1,6% grazie ai giudizi positivi di diversi broker. Devo dire che Unicredit e Intesa prima, un'ora dalla chiusura erano anche positive, poi negli ultimi minuti ci sono stati diversi realizzi. Milano a un quarto d'ora dalla fine guadagnava lo 0,4%, alla fine infatti Intesa chiude a meno 0,3%, Unicredit praticamente piatta. E migliori e peggiori li ho già detti. Comunque, oltre a quelli citati, cito anche CSP meno 3,25%. Tra chi è andato bene, invece, anche Risanamento più 3,60%. Grazie a Ceo Condina. C'è chi si lamenta, dice: risus abundat in ore sul torum. Il riso abbonda sulla bocca degli stupidi perché rido. Ma cosa dobbiamo fare? Spararci, tirarci una randellata in luoghi, diciamo, poco battuti dal sole? Cosa dobbiamo fare? Adesso, tanto per ridere un altro po', dopo esserci occupati ieri di Banca Marche, che è un caso gravissimo, non voglio paragonare e fare paragoni impropri, dobbiamo occuparci però di un altro caso che riguarda sempre un'ispezione della Banca d'Italia, in cui arriva anche in questo caso una richiesta molto netta di sostituire il presidente di questa banca, il presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Berneschi, e anche il presidente del collegio sindacale Andrea Traverso. Come dire, anche chi doveva vigilare non stava vigilando internamente. La banca si chiama Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, ha 678 sportelli e quasi 6.000 dipendenti, è quotata anche a Piazza Affari, capitalizza 1.100 milioni di euro, e anche in questo caso io ho un sogno. I have a dream that one day on the red hill in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Io ho il sogno di non avere più ospite Fabio Pavesi in questa trasmissione, perché ogni volta che viene c'è una rogna. Allora, ieri Banca Marche, prima gli scandali di Fondiaria Sai, e adesso anche la Cassa di Risparmio di Genova. Vedo che altri ascoltatori scrivono della Cassa di Risparmio di Marostica, se ho ben visto. Allora, intanto, per fare un'operazione di pulizia, dici se ci sono altri casi, oltre uno che so già qual è, questo ne hanno parlato i giornali, va bene. Lì c'è, insomma, bisogna capire esattamente come sono messi i crediti che alcuni grandi banche, tra cui Unicredito e Intesa San Paolo, hanno fornito a un imprenditore barra finanziere che si chiama Roman Zaleski, è polacco di origine, è molto conosciuto perché è dentro la Mittel con Giovanni Bazzoli, e questo potrebbe essere un nuovo elemento di, ma quello non è, quello è più un caso di prestiti di alcune grandi banche a un finanziere. Qui stiamo parlando anche nel caso di banca della Cassa di Risparmio di Genova di una gestione complessivamente sbagliata secondo la Banca d'Italia, sì. Non di un prestito fornito a un soggetto come fu per Mediobanca l'operazione su Don Verzè e anche soprattutto confondere, sai, con Ligresti. Prego. Ma Banca d'Italia ci ha messo 5 mesi, ha rivoltato come un calzino la cassa alla Carige. Ricordiamo che il presidente Berneschi è sulla tolda di comando da una ventina d'anni. Era il padre padrone della banca, nel senso che aveva pieni poteri, li esercitava con assoluta, come dire, discrezionalità. La banca da tempo era sottocapitalizzata, perché tuttora ha un core tier 1 del 6%, per chi ancora non fosse avvezzo a questi termini, una banca deve avere almeno l'8% di patrimonio per evitare rischi di stabilità. Bene, Carige è da anni sotto quella soglia e quindi è una banca che funzionava con pochi capitali. Una banca che deve ricapitalizzare per 800 milioni, e lì Berneschi è andato in dissenso col presidente perché volevano vendere le assicurazioni, volevano fare un aumento di capitale molto basso perché la fondazione, che ha il 47% della banca, ha già fatto aumenti di capitale, non ha i soldi per farlo. C'è stato uno scontro al vertice, però la Banca d'Italia dice che di fatto Berneschi era il padrone assoluto, e anche quando qualcuno si opponeva in CDA, poi in realtà questa opposizione era talmente morbida per cui Berneschi faceva un po' il bello e il cattivo tempo. Di fatto chiude una gestione autocratica della banca, una banca che, come spesso è capitato in casi di banche più piccole, anch'io non voglio fare la similitudine con Banca Marche, ma uno guardava i bilanci Carige e scopriva che ogni anno faceva 200 milioni di profitti, li faceva nel 2007, 2008, 2009, per cui uno guardava e diceva, beh, è una buona banca, fa gli utili nonostante la crisi. Poi scopriva che faceva quegli utili lì perché non accantonava a sufficienza i crediti malati. Allora, la banca aveva crediti malati ed erano consistenti. Adesso, alla fine dell'ispezione, Banca d'Italia ci dice che i crediti malati di Carige sono il 17% del totale dei crediti. Siamo quasi a un quinto. Cioè, immaginate un portafoglio di 24 miliardi di crediti, il 17% sono oltre 4 miliardi e mezzo di soldi che rischiano di non ritornare in banca. E se tu sai che quei crediti sono malati, ma non li accantoni, tu fai figura degli utili che però sono fittizi. Cioè, tu fai vedere che vai bene, ma in realtà la banca è messa male. Questo giochino Banca d'Italia l'ha scoperto, tant'è che loro hanno provato la semestrale poco prima della chiusura dell'ispezione, e le rettifiche di crediti sono passate da 70 milioni a 240 milioni in soli 6 mesi. Cioè Banca d'Italia ha detto, adesso pulite i conti, e si scopre, come nel caso di altre banche, che i soldi c'erano ma solo per gli amici. Allora, l'ispezione questo è simile alla vicenda Banca è simile Marte, a vicende di altre banche. Ci sono nomi della Genova Bene che, nonostante difficoltà economiche delle loro aziende, ricevevano crediti, come dire, facili, e mentre magari il signor Brambilla, che aveva un'attività piccola in quel di Genova, hanno rilevato anche questioni di antiriciclaggio, cioè loro hanno filiale a Nizza in cui evidentemente c'è una gestione un po' lasca, insomma un istituto gestito come una bottega artigiana. Ecco, mi dici quando è la prossima volta che ci vedremo? Spero tardi, però non è colpa mia se accadono queste cose. No, ma dico, c'è qualche altra banca, Ostica, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrari. L'elenco pubblico sul sito di Banca Italia, a tutt'oggi, con Banca Marche, commissariata l'altro ieri, sono 12 gli istituti sotto commissionamento di Banca Italia. Quella di Marostica si chiama Banca Popolare di Marostica, non è ancora commissariata, ma dicono tutti che è messa parecchio male, staremo a vedere. Le commissariate sono la Cari Ferrara, la Banca Popolare di Spoleto, la Banca Marche, la Tercas di Teramo e piccole banche di credito cooperative, tutte banche medie o piccole e locali. A mai più? A mai più si spera. A mai più si spera. Ma dubito. Temo di no. Dubito. Adesso andiamo col GR e poi devo anche raccontarvi che mi è crollato un mito, Nuria Rubini, il primo a prevedere la crisi, si è fatto beccare a fare i festini con la jacuzzi interrato, ha guadagnato pure dalla crisi. E invece seriamente parleremo dell'operazione gigantesca Microsoft Nokia, dopo l'operazione ancora più gigantesca Vodafone, Verizon, tutto il mondo delle telecomunicazioni e di internet si sta muovendo. Alle 18:07 ritorna Focus Economia e con voi come sempre Sebastiano Barisoni e dicevo di Nuria Rubini, ma dai, ce ne occupiamo dopo, ma è caduto un altro mito, in realtà è caduto nella sua vasca idromassaggio dove è uso tenere festini selvaggi, lo vogliono cacciare dal suo palazzo, ma Rubini, che è quello che per primo identificò e mise in allerta sul rischio dell'esplosione poi della bolla finanziaria del 2008, battezzato Dottor Sventura, è uno dei pochi che ci ha guadagnato da questa crisi, ammette appunto da allora, grazie immagino soprattutto a tutta l'attività di convegnistica, dei luoghi in cui viene chiamato a esporre le sue teorie, si è arricchito, devo dire che non l'ha mai negato. L'attico da cui vorrebbero cacciarlo per questi festini selvaggi in cui la gigantesca jacuzzi che è stato chiesto di rimuovere sul terrazzo del superattico a Manhattan si popola di giovani modelle vale oltre 7 milioni di dollari. Beato lui, arriva un assaggio per i dollari, mi fermo qua. E invece torniamo sulla notizia del giorno a carattere internazionale. 5 miliardi e 440 milioni di euro pagherà Microsoft per chiudere l'operazione. L'operazione non si chiuderà chiaramente subito, ma insomma rilevare tutta Nokia. Tutta Nokia vuol dire le licenze, tutta la divisione telefoni, che vale 1 miliardo 650 milioni, ha pagato per la licenza dei brevetti, 3 miliardi 800 milioni ha pagato per tutta la Nokia tra l'altro Microsoft metterà subito a disposizione un finanziamento di 1 miliardo e mezzo in tre tranche da 500 milioni di euro in obbligazioni convertibili. Nokia, che ha 32.000 dipendenti, passeranno tutti a Microsoft, inclusi i 4.700 che lavorano in Finlandia e i 18.300 che si occupano nel mondo della produzione manifatturiera, dell'assemblaggio e del packaging. Acquisisce anche l'uso dei servizi delle mappe di Nokia e anche il marchio Lumia. Più 45% è arrivato a toccare il titolo Nokia alla borsa di Helsinki, da noi è chiaramente stato il miglior titolo, più 34,7% la chiusura. Ora, Microsoft sta seguendo in questo modo le orme del grande rivale internet, Google, che ha già investito nell'hardware, come si chiama in gergo, acquistando il produttore americano di cellulari Motorola. L'acquisizione di Nokia dovrebbe anche rilanciare le indiscrezioni sul futuro di un altro nome storico della telefonia, mi riferisco a BlackBerry, che è in grossa difficoltà, compagnia canadese, e già da giorni, da settimane, si vocifera di un probabile compratore. E ancora, arriva questa operazione a pochissimi giorni da un'altra operazione che abbiamo ampiamente raccontato, e mi riferisco all'uscita di Vodafone dalla joint venture con Verizon, con il colosso americano Verizon, nella telefonia mobile. Verizon ha pagato Vodafone 130 miliardi, metà in azioni, metà in soldi veri, però Vodafone in questo momento è chiaramente uno dei cacciatori più forti sul mercato delle telecomunicazioni / internet. Su questo la conferenza stampa, le parole entusiaste dell'amministratore delegato uscente di Microsoft, mollerà infatti entro un anno, Steve Ballmer a Helsinki nel corso della presentazione dell'acquisizione. signature event in our transformation. È un evento epocale nel nostro percorso di trasformazione. Pensiamo sia un accordo vantaggioso per i dipendenti, per gli azionisti e per la clientela di entrambe le società. Through our partnership, we've already accomplished so much. Attraverso la nostra collaborazione abbiamo già raggiunto molti obiettivi e chiaramente le opportunità che si aprono ora davanti a noi sono molto significative. Io sono incredibilmente ottimista su dove possano arrivare insieme Microsoft e Nokia con i loro dispositivi e strumenti. Stiamo lavorando, siamo entusiasti. L'operazione ci dà grande energia nel perseguire il nostro sogno comune, ossia di avere successo nell'innovazione nel settore degli smartphone. Allora vorrei capire cosa sta succedendo a tutta un'industria che era considerata la bella addormentata, poi arriveremo anche alla nostra Telecom Italia. Ecco perché però ringrazio intanto il direttore di Wired Italia, che per chi non lo sapesse Wired è la Bibbia di chi si occupa di internet, information technology, telecomunicazioni, la Bibbia di internet. Massimo Russo, buonasera direttore. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Ci aiuti a capire, avendo anche un po' di comprensione per la mia nota e profonda ignoranza, ma insomma il binario tracciato in questo caso già dall'operazione, diciamo, Google Motorola, adesso Microsoft Nokia, è un'integrazione complessiva? Ma evidentemente sì, con alcune differenze però. Intanto facciamo un passo ancora indietro e diciamo che lo scenario complessivo è quello di un mobile che cresce moltissimo nei prossimi anni. Entro il 2020 diciamo che la prospettiva è quella di avere un accesso a internet e al digitale da mobile che sia 10 volte quello che è stato la rivoluzione, diciamo, del desktop internet, cioè internet sui computer. Quindi noi navigheremo con i telefonini smart, sempre più smart. Assolutamente. Più smart i telefonini delle volte dei proprietari, ma comunque, prego. Non c'è dubbio. Navigheremo con i telefonini e con i dispositivi mobili ed è evidente che in questo Microsoft fosse spiazzata in questo momento, perché è ancora in qualche modo figlia di un'epoca che aveva la centralità del computer, la centralità addirittura del personal computer, perché all'inizio arrivavano in ritardo anche su internet e quindi è storicamente in qualche modo all'inseguimento di un settore che oramai vede un predominio fortissimo per quanto riguarda il numero di dispositivi di Android, che è il sistema operativo di Google, e un predominio invece per quanto riguarda i ricavi, quindi per quanto riguarda il traffico sviluppato da chi poi ha questi telefonini in tasca e quindi le applicazioni di Apple. Quindi immaginiamoci non solo queste due aziende, ma anche tutto l'ecosistema di sviluppo che sta attorno a queste due aziende, che significa, cioè, tutte le aziende che poi producono il software che si trasforma in applicazioni e che noi utilizziamo sui nostri telefonini. Perché, cioè, l'indotto potremmo chiamarlo. Sì, perché i telefonini possono essere eccellenti, dispositivi hardware, il sistema operativo che li compone, che li fa funzionare, diciamo il cuore che batte al loro interno può essere un ottimo prodotto, ma poi se non ci sono le applicazioni che li fanno funzionare, certo, noi ci arrabbiamo, perché esce l'ultima applicazione e vediamo che esiste per Apple, esiste per Android e magari per Windows o per BlackBerry non c'è. E quindi il mercato è appunto non solo sul motore che hai dentro, per usare un parallelo un po' automobilistico, ma anche gadget sembra quasi una diminuzione, ma non è così, ma anche su tutto il resto che la macchina ti ha dato. Puoi avere un motore molto potente, ma se poi non ho tutto un insieme di, più che gadget, di comodità, di accessori, di applicazioni dentro la macchina, io vado a scegliere magari un altro produttore. Quindi a questo punto Windows e Microsoft, scusatemi, aveva bisogno di iniziare a operare, avere dentro casa un produttore di telefoni. Mi chiedono molti ascoltatori se si chiameranno ancora Nokia o Microsoft i telefonini. Questo te lo può dire. Io credo che almeno per un po' di tempo vedremo assolutamente il marchio Nokia, anche perché il marchio Nokia continua ad essere un marchio di eccellenza. Sì. Se si pensa all'hardware, ad esempio con alcune caratteristiche dei Nokia, su tutte la qualità delle fotocamere, è un elemento distintivo. Se ci pensiamo, poi fu una previsione sbagliata, ma la prima previsione che i tecnici Nokia fecero all'uscita dell'iPhone fu: l'iPhone non funziona perché non superò i test di robustezza ai quali Nokia sottoponeva i propri apparecchi. Che i telefoni Nokia siano tra i più robusti lo sa chiunque ha avuto un Nokia negli anni passati e ancora lo utilizza. Questo lo dico senza non sto facendo pubblicità, tanto ormai se l'è comprata mai. No, ma certo. Però su questo io invece vorrei, ho capito benissimo, diciamo, dove vanno le direttrici strategiche e perché questa operazione e perché BlackBerry è considerata, diciamo, la prossima preda possibile. C'è però un altro elemento che non sfugge in tutta questa vicenda. E cioè che, insomma, Nokia era rimasto il principale produttore europeo, sono l'unico produttore europeo di un certo peso di telefonini. E allora, come diceva giustamente oggi la nostra Valentina Fulanetto nel suo servizio, qua rischiamo di avere il computer cinese, il software americano, non avremo più nulla di europeo anche nel continente che per primo ha fatto sviluppare i telefoni cellulari. Non dimentichiamocelo mai che l'America era molto molto indietro a inizio anni 90, e potrebbe essere questa una perdita anche per il continente europeo in generale, fermo restando che il mercato è per tutti. Di questo parleremo dopo, e parleremo anche, sempre con te ma anche con la nostra collega Marigia Mangano, del futuro di Telecom Italia, perché, diciamo, il BlackBerry sta al mondo dei supporti del telefonini quanto Telecom Italia sta al mondo, diciamo, dei carrier, perché insomma è chiaro che Vodafone adesso è piena di soldi e da qualche parte li vorrà investire. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. No, sto ridendo perché c'è un ascoltatore che ha scritto che con la musica che mettiamo sembra che anch'io sia uno fissato a dar festini nella vasca jacuzzi all'ultimo piano come Rubini, no dai. Allora, le preoccupazioni invece che l'Europa subisca una grave perdita le ha espresse Carolina Milanesi, che è analista di telecomunicazioni per la società Gartner, alla nostra Valentina Fulanetto. Per l'Europa è un peccato, no? Perdiamo un po' il nome dell'azienda che è sempre stata sinonimo di mobilità, è sempre stata sinonimo del telefonino, no? E ha portato questo nuovo modo di comunicare al mondo, al punto dove la Nokia nel 2007 aveva una quota di mercato del 40% a livello mondiale. E adesso invece si ritrova con un mercato, una quota di mercato del 3% per gli smartphone, a dover lottare quasi per rimanere a galla. E secondo me abbiamo perso un pochino già questa posizione di preferenza nel mercato, tutto si è spostato in America, un po' tristemente, no? per noi europei, però la realtà è questa, che nel momento in cui i nuovi smartphone con l'iPhone, con Android, sono diventati poi più un modo di comunicare a 360, quindi non solo la voce ma anche la parte sociale, la parte di email e via dicendo, altri nomi che sono più legati alla parte di computer, alla parte dell'internet sono diventati importanti, e quindi diciamo la sfera di importanza si è spostata dall'Europa all'America. Quindi la nostra lettura, diciamo, non andava lontano dalla verità, la Finlandia ma l'Europa in qualche maniera vengono mangiate in questo caso dall'America, nonostante le rassicurazioni per i posti di lavoro. Sì, sono due cose diverse, diciamo che sicuramente c'è stata molto oggi nella conferenza stampa cercare di dare un pochino di sicurezza alla Finlandia, che ovviamente da un punto di vista di lavoratori dipende moltissimo dalla Nokia e dall'opportunità che la Nokia ha nel mercato, ma secondo me questo discorso dell'America che mangia l'Europa appunto sta accadendo da un po', e è un po' il sintomo di come la comunicazione si sta evolvendo, e dove per essere un giocatore importante sia nella parte dei PC che nella parte di mobilità la parte interna, la parte sociale, la parte di cloud è molto molto importante. Allora, Massimo Russo, lei è d'accordo, al di là poi diciamo del mercato complessivo, che questa comunque sia una perdita, un indebolimento, anzi tu sei d'accordo, sei un collega, che sia un indebolimento per, complessivamente per l'Europa, o siamo provinciali a ragionare in questi termini in un mondo in cui le acquisizioni sono assolutamente transcontinentali? Beh, è oggettivo che sia una perdita, se non altro, di centralità. Dopodiché sono convinto che il know-how, una serie di competenze rimarranno sicuramente in Finlandia, soprattutto dove Nokia ha il proprio quartier generale, ma insomma è innegabile che sia così, che la tecnologia e l'innovazione in qualche modo si spostano ancora una volta dall'Europa. Dico ancora una volta perché è stato già così nel tempo, ad esempio per Internet, per quanto riguarda la ricerca. Microsoft acquistò la propria tecnologia per la ricerca in Norvegia, acquisendo un'azienda norvegese che era molto avanti a quel tempo, che si chiamava FAST. Lo stesso Renato Soru allora vendette l'area di ricerca di Tiscali, che era molto avanzata, a Google stessa, per credo una decina di milioni di euro. Quindi c'è un impoverimento, ma diciamo questa è la tendenza. A questo proposito, e senza voler fare paralleli troppo forzati, questo è un paese, io lo ricordo ogni tanto, che a fine anni 90 aveva il primo gruppo e il terzo gruppo in Europa di telefonia mobile. Si chiamavano come classifica TIM da un lato e Omnit dall'altro. Poi sappiamo che è successo: per comprare per scalare Telecom fu venduta da Colaninno la Omnitel, che andò a Vodafone. Adesso il problema è che noi abbiamo un gruppo che si chiama Telecom Italia, il cui azionista, non è un problema questo, è un dato di fatto, ci mancherebbe, l'azionista di riferimento è il colosso spagnolo Telefonica. Ora, non sfugge a nessuno che in questa partita, che coinvolge a questo punto tutti gli attori, perché va da Verizon a Vodafone, da American Mobile del miliardario Carlos Slim a BlackBerry, appunto Nokia oggi, beh, da questa partita difficilmente potrà restare fuori Telecom, che in questo momento è la Cenerentola non solo di borsa. Anche perché la coincidenza vuole che lungo tutto il mese di settembre possa essere rivisto il patto azionario che regge Telecom Italia. Marigia Mangano, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, come caliamo l'ennesima notizia di questi giorni nel mondo delle telecomunicazioni? Sono in fibrillazione. Oggi la borsa su Telecom è stata più cauta del solito, più 1,15%, ma è giorni che il titolo continua a crescere. Sì, ormai appunto sono tre sedute, ha guadagnato circa il 15% e anche gli scambi sono molto forti. È chiaro che tutto il risico europeo va a coinvolgere, o comunque porta il mercato a puntare i riflettori su Telecom Italia, anche perché da due giorni, dal 1 settembre, si è aperta la finestra che durerà fino al 28 settembre, nel corso della quale i soci di riferimento, che sono Telefonica, Mediobanca, Generali e Intesa San Paolo, potranno dare disdetta al patto di sindacato. Alcuni di questi soci lo hanno già comunicato verbalmente, ma non ufficialmente, che sono Mediobanca e Generali, e si aspettano ora invece le mosse di Telefonica e di Intesa San Paolo, ma soprattutto degli spagnoli. Anche perché, come anticipavo, per tutto il mese di settembre c'è la possibilità per i soci di sciogliere la partecipazione in Telco. Telco ha il 22% di Telecom Italia, ma dentro Telco ci sono appunto Telefonica col 46%, Generali col 30%, Mediobanca con l'11%, ma Mediobanca ha già annunciato che vuole uscire, anche Generali non mi sembra che, sì, esatto, che voglia stare dentro. Quando e che tipo di novità potremmo attenderci a questo punto, Marigia? Diciamo che nelle ultime 19 ore, c'è il CDA, 19 settembre, no? Sì, esatto, però i giochi, soprattutto per quanto riguarda gli assetti di Telco, si stanno facendo in questi giorni. Si parla di contatti tra gli spagnoli e gli altri soci di Telco per andare in qualche modo a rivedere gli assetti. C'è chi parla di una fusione che si potrebbe prendere in considerazione tra la stessa Telefonica e Telecom Italia, progetto peraltro che Bernabé aveva studiato in passato e poi era stato congelato. così come altri invece sottolineano che Telefonica potrebbe rilevare una parte dei pacchetti che saranno ceduti, in realtà per esempio solo quello di Mediobanca e non quello di Generali. Insomma, ci sono diversi scenari, però in questo momento i soci sono in contatto appunto tra loro per cercare di trovare una soluzione in tempi stretti, anche perché entro il 28 settembre potranno essere comunicate le disdette e sarà necessario per quella data avere quantomeno un progetto su come sarà la futura telco. Eh sì, quali saranno gli azionisti stabili e in che quote. Grazie anche a Marigio Mangano e grazie chiaramente anche al direttore di Wire Italia Massimo Russo. Dunque, mi scrive un ascoltatore, ma Barisoni, ma qualcuno nella sua redazione glielo dice che il suo programma non è una hit parade, ma un programma di approfondimento su argomenti economici, e che lei non è un DJ, ma un giornalista? La musica che sale nelle sue parti discorsive non c'entra nulla, non è neanche la musica adatta. Sì, sì, me lo dicono. Il 19 settembre il CDA Telecom Italia, ma come spiegava Marigio Mangano vi sarà probabilmente qualche annuncio e movimento prima di allora. Intanto termina qui Focus Economia, o l'hit parade di Focus Economia secondo alcuni ascoltatori. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.